La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Con l'articolo 35 si apre il titolo terzo della parte prima, rapporti economici. Rapporti economici che, non a caso, hanno come primi articoli quelli che riguardano il lavoro. Sappiamo bene che il lavoro è uno degli assi portanti dell'impianto costituzionale. La Repubblica, di cui l'articolo 1, è fondata sul lavoro. L'articolo 4, fra i principi fondamentali, pone il lavoro come elemento fondamentale di partecipazione. L'articolo 35 inizia a declinare concretamente come si tutela il lavoro. E anche qui abbiamo una serie di disposizioni che proteggono i lavoratori. Storicamente i lavoratori erano sicuramente contraenti deboli, per cui già la Costituzione deve porsi il problema di tutelare i lavoratori. L'articolo 35 lo fa nella maniera più ampia possibile, con un'affermazione di principio di apertura: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Per cui alla Repubblica non stanno a cuore soltanto i lavoratori subordinati, ma tutte le sue forme e applicazioni. Significa che anche i lavori autonomi e ogni altra forma di lavoro comunque rientra sotto l'ombrello costituzionale, tutelato nella maniera più ampia possibile, perché spetta alla Repubblica e non allo Stato. C'è una differenza profonda fra la parola Repubblica e la parola Stato. Lo Stato è solo l'articolazione centrale della macchina pubblica. Invece la Repubblica è ogni forma e ogni articolazione. Regioni, province, comuni, corpi intermedi, tutti formano la Repubblica e tutti devono tutelare il lavoro. L'articolo 35, al secondo comma, specifica subito una delle forme in cui si tutela il lavoro. Il lavoro va tutelato con la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Cioè il lavoratore non deve solo lavorare, l'immagine classica del minatore che sta tutto il giorno a spicconare e a spalare, ma deve essere anche formato ed elevato. Quindi serve curarne il miglioramento e la crescita. L'ultimo comma dell'articolo 35 riguarda invece un problema che all'epoca era sentitissimo: la libertà di emigrazione. Sappiamo bene che l'Italia, dalla fine dell'Ottocento a tutta la metà del Novecento, aveva affrontato delle grandissime ondate di emigrazione verso le Americhe, verso l'Australia, e il Costituente si pone il problema di questi italiani all'estero, tutelando il lavoro italiano all'estero e riconoscendo soprattutto la libertà di emigrazione, perché invece in determinati anni dello Stato italiano, del Regno d'Italia, non c'era neanche la libertà di emigrazione.